come date il 20 le va bene, cioè. Ma va bene, dai, se ormai siamo in ballo, valiamo, che devo dirti? Non sei molto convinto, Urbano, posso dirti? Oggi ho trasmesso oggi una grandissima convinzione che dobbiamo assolutamente giocare. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Oggi possiamo quindi dire che il campionato riprende il 20 giugno. Mi sono confrontato al termine della riunione col presidente del Consiglio Conte. Sono contento perché c'è grande voglia da parte dei ragazzi, c'è grande disponibilità. Enthusiasm about the future. Giusto che riparta anche il calcio. Oggi pomeriggio è arrivato l'ok del comitato tecnico scientifico al protocollo che aveva proposto la FIGC sulla ripartenza del campionato. Il CTS ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo. Ho anche chiesto alla FIGC se avesse chiaro che qualora anche riprendesse il campionato e dovesse invece l'emergenza sanitaria ritornare, si dovrebbe di nuovo risospendere. La FIGC mi ha assicurato che esiste sia un piano B che un piano C, dove il piano B sono playoff e playout e il piano C è anche una cristallizzazione della classifica. Sono in corso anche contatti con i broadcaster. Le prime interlocuzioni di oggi anche con Sky sono state positive, quindi mi auguro che anche da Sky arrivi un segnale di conferma nei limiti del possibile, che possa anche questo andare incontro alla volontà di tutti gli italiani di vivere questa ripresa. Visto che il campionato riprende il 20 giugno, io personalmente mi auguro anche che si possa dare un segnale positivo a tutto il paese utilizzando quella settimana che va dal 13 al 20 per completare la Coppa Italia. Entusiasmo sì, caro Presidente del Consiglio Conte. Allora, permetteteci oggi, saluto Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Eccomi, ciao. Ciao, Pierluigi Pardo in arrivo, ma permetteteci... Anche voi che non seguite abitudini nello sport, oggi di essere felici, di vivere questa giornata con eccitazione. C'è la conferma, ed è ufficiale, leggo ora un'ultima ora di Sky, che si riprenderà il 13-14 giugno con le semifinali di Coppa Italia, il 17 con la finale. Non tutti sono d'accordo, in particolare l'Inter, di questo poi parleremo. Il 20 di giugno si va con i recuperi e mi sembra la soluzione corretta, perché si riparte poi dall'infrasettimanale successivo sportivamente tutti allo stesso livello. Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Ciao Federico, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao, ecco Pierluigi Pardo. Buongiorno Pierluigi. Buongiorno, buongiorno. Ciao Fede, ciao Carlo. Ciao, a cosa dedichi il Radio Tweet? Non ci ho pensato, allora mi lascio trasportare dal sentimento che credo sia l'aspetto fondamentale, perché tutte le cose nella vita rinascono, tutte le cose nella vita hanno un rischio e quindi anche e soprattutto in un momento come questo il rischio zero purtroppo non esiste, però io credo che la forza della vita, senza scomodare Ballesi o vecchie canzoni, ci debba portare avanti e credo che nelle ultime ore, negli ultimi giorni questo elemento sia venuto fuori. Sì. E l'entusiasmo spero davvero che tornerà anche a quelli che in questo momento comprensibilmente non ne hanno, perché è legittimo dopo il periodo che abbiamo passato non considerare il calcio una cosa prioritaria, ma la ripartenza del calcio e dello sport fa parte della vita e quindi lasciamoci trasportare da questo vento di cose positive che mi auguro verranno fuori. Sono particolarmente d'accordo. Il giorno di una almeno contenuta, facciamo così, felicità, Federico, lo condividi? Sì, io toglierei il contenuta per un motivo. A me è piaciuto molto in questi mesi il modo in cui Giovanni, tutti voi, altri convocati avete trattato questo argomento. ma non per il per la questione del si deve giocare o non si deve giocare, i pareri favorevoli o i pareri contrari, che mi sembrano veramente tutti legittimi in questo momento, ma soprattutto nel non considerare la ripresa dello sport, la ripresa del calcio in questo caso in modo particolare, come un elemento in qualche modo del quale vergognarsi, no? Come sì. se lo sport fosse un fatto futile, un fatto non al centro della vita, che non vuol dire assolutamente che fosse la cosa più importante, né lo sarà, e lo sappiamo benissimo, ci mancherebbe altro, e doveva necessariamente e dovrà venire dopo tante altre cose. Ma il punto era un altro, il punto era non considerare questa come un'attività dei ricconi che devono ci hanno fatto quasi vergognare di occuparci di sport, di dire che tutto sommato lo sport è anche un'attività economica importante. Abbiamo provato in questo periodo un senso di vergogna indotto da quelli che stavano al balcone, alla finestra, e sono lì ancora a dire: ma voi piantatela, ma cosa conta lo sport, guardate quell'altro che succede, guardiamo anche noi il resto che succede, siamo anche noi legittimamente preoccupati, però vergogna anche no. Giovanni. Esattamente, ma scusami se posso solo chiudere, certo. Da questo punto di vista, in qualche modo anche l'atteggiamento tenuto e il cambio di rotta in qualche modo dello stesso ministro Spadafora, secondo me ha riportato questo argomento nei giusti termini e sinceramente le posizioni di questi giorni le ho apprezzate. Sì. Tutti noi. Sì, io sai come la penso, io fra l'altro ero con Spadafora in un programma televisivo con la Palombelli proprio nel giorno nel quale secondo me è arrivata la prima svolta da parte del ministro. Io questa sensazione ce l'ho avuta, cioè che lui in un primo momento abbia considerato troppo stressante, troppo problematica la ripresa, e poi però secondo me ha cambiato rotta, e insomma soltanto chi è sciocco non cambia nella vita, anche perché poi siamo di fronte a una situazione che è cambiata moltissimo nel giro dei giorni. È ovvio che certo. Un mese e mezzo fa la situazione era diversa. Vi ricordate la sera del Papa a Piazza San Pietro con le nuvole, la pioggia, o quell'immagine sì, terribile, ma di nessuno Bergamo, chiedeva di giocare il giorno dopo, Pierluigi, ecco, nessuno capito, chiedeva quindi, anche noi abbiamo cambiato molte volte opinione, Giovanni, come ovvio che sia come è normale che sia Giovanni, sulle modalità della ripartenza c'è però già scazzo, mi pare, no? Tra Inter, Juve, Milan, Stella Coppa sì. Italia, soprattutto arrabbiata l'Inter. Sì, anche se mi sembra che la rivolta sia rientrata, nel senso che insomma l'ultima ora l'avete data voi, è un'ultima ora che esce dal Consiglio di Lega, si presume che nel Consiglio di Lega, dove siede ad esempio Beppe Marotta, si siano parlati francamente ed evidentemente alla fine sono usciti con la stessa soluzione che è stata ventilata ieri sera alle ore 22 quando è iniziata la rivolta, non solo dell'Inter ma diciamo in maniera più rumorosa e fragorosa quella dell'Inter. Guarda, io credo questa mattina da un certo punto di vista è stata una boccata di normalità trovare la polemica, la minaccia di giocare con la primavera come le code in tangenziale. Esatto, fra parentesi lo dico, l'attività della primavera, non quella dell'Inter in generale, in questo momento è sospesa, quindi chiaramente stiamo parlando di una polemica fine a se stessa, però diciamo c'è stato quel senso di normalità quasi rassicurante, siamo veramente tornati laddove ci eravamo lasciati, lo ricordate, no? L'8 marzo, con tutto il dibattito sulle porte aperte, le porte chiuse, Juventus-Inter e tutto quello che abbiamo vissuto prima di entrare nel tunnel della pandemia. Però io dico attenzione, perché con la stessa schiena dritta tenuta in due mesi per affermare il principio che non bisognava vergognarsi di far ripartire il calcio, di chiedere che il calcio ripartisse perché aveva un valore economico e sociale superiore al semplice circolo di viziati che corrono dietro a un pallone, io credo che nelle prossime settimane si dovrà essere sentinelle, perché ho l'impressione che se non nell'ombra, nella penombra, ci sia ancora chi lavora alacremente per far sì che le cose non vadano bene. Sì, in questo ovviamente in coro speriamo di no, però siamo anche abbastanza vecchi e realisti per capire che potrebbe essere così. Invece ha una sua logica, Federico, la ripresa del campionato nel weekend del 20 dai recuperi, che è stata ufficializzata, ha una sua perfetta logica sportiva, no? Si tratta ancora di definire gli orari di cui si è molto discusso, anche a proposito di quanto stava dicendo Giovanni, di argomenti che mi sembrano pretestuosi. Orari estivi delle partite, la posizione di Sky qual è? Allora, dal punto di vista dei recuperi, sono convinto anch'io che sia corretto, in ogni caso, al di là del fatto che probabilmente in Astrut, potendo scegliere, sarebbe stato meglio inserirli in un turno infrasettimanale, perché ci sono meno slot e quindi sarebbe stato meglio inserire meno partite. Però al di là di questo, che è poco influente, però trovo molto corretto il principio sportivo del, come dicevi tu, del riequilibrare il numero di partite giocate dalle squadre, anche perché dobbiamo sempre considerare che si gioca in una situazione di emergenza che purtroppo non possiamo prevedere il futuro, e che dunque, nel caso che tutti scongiuriamo, ma che ci si debba nuovamente rifermare, è evidente che la cristallizzazione della classifica o gli eventuali playoff da disputare saranno molto più facili se le squadre hanno giocato le stesse numero di partite e non si deve ricorrere a pericolosi esercizi matematici sui coefficienti. Per quanto riguarda gli orari, ti dico, io credo che sia più che giusto considerare degli orari, ovviamente, che tengano in considerazione l'aspetto climatico. Ritengo quindi che si debbano escludere slot troppo anticipati. Faccio un esempio, quello delle 15, per non parlare delle 16:30. Uh-huh. Dico anche quello delle 16. Penso sinceramente che, come in tutte le manifestazioni sportive giocate tra giugno e luglio, e potrei citarti decine di partite di mondiali ed europei, se si pensa di giocare alle 17 o alle 17:30, soprattutto selezionando nel modo migliore le partite, magari riducendo al minimo questi slot, beh, sinceramente io credo che tra giocare alle 17:30 e alle 19, soprattutto nel nord Italia, non credo ci sia una differenza così clamorosa, e dunque penso che questo tipo di resistenze sia pretestuoso e anche un po' antico, soprattutto quando la si attribuisce a questa cattiva televisione che impone con i suoi tentacoli Federico, fammelo dire, per la mia ormai lunga, quasi d'anziana esperienza in vari canali televisivi, questo io ogni tanto lo ripeto perché è un aspetto fondamentale che fa parte, secondo me, della ricostruzione di un'immagine corretta. Non c'è nessun dirigente televisivo, né Federico Ferri, né Massimo Corcione, né Alberto Brandi, col quale io abbia mai parlato, che abbia desiderato uno stadio vuoto o delle soluzioni che fossero scomode per i tifosi, per il tifoso vero, per il tifoso che va a vedere la partita. Non c'è mai stato un conflitto da questo punto di vista. E anche qui dovrà essere utilizzato il buonsenso, quindi è ovvio, cerchiamo di giocare soprattutto al sud in degli orari serali, ovviamente, per ovvi motivi. La salute dei giocatori, la condizione fisica è la prima cosa. E poi, insomma, cerchiamo di capire che è una situazione di emergenza che vale per tutti. Non c'è in questo momento nessuno che sia fuori da questo, nessuno che ami il calcio che non sappia che stiamo vivendo un momento di emergenza. Stadio vuoto, senza pubblico, non piace a nessun telecronista, a nessun direttore di nessun canale televisivo. No, però Pierluigi, non bisogna anche... È un passaggio purtroppo forzato in questo momento per tornare pian piano a una normalità che... sarà quello del ritorno, cioè, dei tifosi. Però non bisogna nemmeno vergognarsi, nemmeno voi signori delle TV, di dire che può essere che questa situazione può essere trasformata in un'opportunità, e la Bundesliga, Federico lo sa benissimo, insegna con i dati d'ascolto che ha avuto. Parlavo con Simone Sandri, mi diceva, negli Stati Uniti c'è la stessa identica fame di sport, quindi hai visto il titolo dell'Equipe di oggi, no? Che capo stanotte che dice siamo dei pirla, ecco, diciamolo alla milanese, non alla parigina, siamo dei pirla, perché ovviamente riferito ai francesi, perché tutti gli altri paesi, pur con legittimi dubbi, con problemi, è stata una decisione politica, stanno ripartendo, capito? La vita è questo, la vita è provare, ovviamente. È stata una decisione politica, la politica francese ha ritenuto opportuno, per ragioni politiche, fare quella scelta lì. D'altra parte, Federico, dicevamo, trasformare tutto quanto in opportunità, quindi anche gli slot delle partite, anche gli orari possono essere un'opportunità, perché sapete benissimo che ci sarà un'attenzione ancora maggiore per mille ragioni, compreso il fatto di vedere, e mi piace ripeterlo, qualcosa di vivo che si muove su un campo di calcio. Questo sicuramente. Ti dico però una cosa, allora, per quanto riguarda gli slot, e questo vale anche durante le altre fasi, voglio dire, del campionato, non in questa così delicata, io credo semplicemente che si debba dire che più slot ci sono, maggiore è la possibilità di dare visibilità a tutte le partite perché siano più seguite, quindi il singolo appassionato, perché esistono per fortuna, sono tantissimi gli appassionati che possono così seguire sia la partita dell'Inter sia la partita dell'Atalanta, perché non giocano in contemporanea. Uh-huh. E questo è il primo punto: più slot ci sono e più possibilità c'è da questo punto di vista, e vale ovviamente assolutamente anche per le televisioni, che possono far vedere a più pubblico le partite, ma non mi sembra che ci sia niente di male, anzi credo sia un servizio in più che uno possa offrire, quindi per questo magari qualche partita alle 17 alle 17:30 può favorire questa cosa, ribadisco, in misura minore rispetto alle altre, magari con un calendario attento che distribuisca bene questo tipo di slot. Per quanto riguarda l'opportunità, certamente c'è l'opportunità di poter tornare a vedere qualcosa che ci appassiona, che amiamo, che ci piace. Andrei un po' più piano sul discorso del diciamo dell'entusiasmo che certamente ci sarà per le prime giornate, perché poi al di là dell'effetto novità stiamo vedendo anche in Bundesliga che se togliamo gli slot diciamo se togliamo l'elemento delle prime due giornate della diretta gol in chiaro, gli ascolti più o meno sono quelli del pre-Covid, quindi da questo punto di vista io credo che non ci sarà, se non per un effetto sorpresa, un effetto novità all'inizio, un grande cambiamento. Ci sarà, ma questo ci sarebbe stato comunque, e ce l'auguriamo davvero se ci sarà finalmente una grande corsa fino alla fine. Questo è veramente determinante, cioè un campionato competitivo fino all'ultimo con due o tre squadre che se lo giocano, cosa che non vediamo da non so quanti anni. Beh, sicuramente questo sì è l'elemento che può spostare, considerando il fatto comunque che Pierre lo confermerà, dati alla mano, purtroppo le porte chiuse non aiutano gli ascolti televisivi, perché al di là delle persone che non vanno allo stadio, ma le partite senza pubblico trattengono meno gente che fa zapping, questo sì, è del sì. tutto dimostrabile. Ma assolutamente, ragazzi, questa cosa qui è proprio è uno di quelle false idee, di quelle fake news che girano. Nessun televisivo vorrà mai vedere uno stadio vuoto, perché ti fa sicuramente venire meno voglia rispetto a San Siro con gli 80.000 di seguire un evento. E allo stesso modo, ha fatto bene Federico a ricordarlo, lo spezzatino, per il quale ho una passione sia per Mangia come parli che per tutti i convocati, per lo spezzatino televisivo è in realtà una soluzione che consente agli appassionati di calcio di vedere tante partite. È chiaro che quando noi rivediamo le partite di una volta, gli anni 80, le magliette di lana, ci emozioniamo, ci siamo emozionati tanto da rivedere tante partite e tanti documentari del passato bellissimi, anche su Sky in questi giorni di quarantena. Però poi io se riesco a vedere 3-4 partite del weekend sono più contento, se riesco a vedere il calcio internazionale, del calcio italiano, sono contento, perché mi piace il pallone e credo che con me ci siano tantissimi tifosi e tantissimi appassionati che magari vanno allo stadio il pomeriggio a vedere la partita e la sera si guardano in posticipo, sì, e sicuro, credo veramente sicuro. Che non ci sia niente di male. No, ma perché non capisco perché dovrebbe esserci qualcosa di male, continuo a non capire perché dovrebbe esserci qualcosa di male. Il 17 giugno, senza dimenticare, ok, campionato che finisce i primi di agosto, 2 agosto, e 17 giugno Giovanni, l'UEFA disegnerà il nostro mese appunto di agosto. Hai qualche idea o qualche perché penso che possa essere, non dico preferenza, però che credo che da lì possa arrivare il vero elemento di novità, no? Potrebbero essere i partita secca, Final Four, eccetera. Guarda, io intanto il 17 giugno sarà una giornata simbolicamente importante, perché il 17 giugno, se tutto va bene, viene assegnata la Coppa Italia, e l'Italia potrebbe, tanto quanto riparte in ritardo rispetto agli altri, potrebbe trovarsi ad essere in realtà il primo movimento top ad assegnare un trofeo dopo l'era Covid, e questo può avere anche un senso. Sulla UEFA io ho questa impressione, anche se qui ogni giorno bisogna aggiornarsi, l'impressione è che in ogni caso si proverà a tenere semi aperta una finestra per eventuali problemi dopo il 2 agosto ai singoli campionati, problemi che potremmo avere noi se non cambia il protocollo, problemi che potrebbe avere anche qualche altro paese, e quindi magari l'idea di poter inserire un paio di tempi supplementari per riuscire a portare a termine i campionati. Dopodiché io credo che noi vedremo ad agosto delle coppe in qualche modo con qualche compromesso. E io penso che sia di buon senso, come sarà di buon senso tutto. Io sentivo prima Federico parlare degli slot, dell'idea di disegnare magari un calendario non fatto semplicemente sulla pil delle squadre, ma sulla, su dove si trovano geograficamente collocate. Aggiungo il lavoro che sta facendo la Lega per togliere i supplementari in Coppa Italia in caso dovessero servire dopo il 90esimo minuto. È chiaro che è un calcio un po' diverso rispetto a quello che c'è era fino all'8 marzo, ma ci dobbiamo abituare che in questo momento si deve ragionare di fare qualche compromesso. E io chiudo: tra le tante cose di cui non bisogna vergognarsi, non bisogna nemmeno vergognarsi di dire che se le televisioni vogliono più slot è anche perché hanno pagato un prodotto con tanti slot. Certo. E se io vado al supermercato e compro un chilo di carne e me ne vogliono dare 7 etti, non sono contento, magari mi accontento di 9. Però giustamente sto al bancone a chiedere che mi diano un chilo. Sì, sì, su questo non c'è dubbio, e anche su questo non ci piove. La tua opinione sulle coppe, Federico, qual è? Perché ripeto, lì potrebbe innestarsi il vero elemento di novità di un formato diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Sono d'accordo con Giovanni, penso che se guardiamo i principali campionati che ripartiranno, perché non dobbiamo dimenticare che ieri è arrivata anche la notizia della data di ripartenza della Premier, e già abbiamo quella della Liga che dovrebbe essere l'11 giugno. Se i quattro principali campionati che sono ripartiti o che ripartiranno, Germania, Italia, Spagna e Inghilterra, chiuderanno i loro tornei nella data prevista, cioè tutti nella prima settimana di agosto, teoricamente c'è margine per poter disputare le coppe esattamente come all'inizio l'UEFA le aveva pensati. Secondo me invece molto intelligentemente l'UEFA sta pensando a una riduzione del format, ad esempio con la Final Four, che mi sembra in questo momento un'idea molto centrata, che si potrebbe addirittura non giocare in Turchia ma in Germania, quanto è emerso ieri, quanto abbiamo riportato ieri a rispetto al nostro Alessandro Occiato. Da questo punto di vista io credo che si tenga una carta importante, sia per poter dare eventualmente una settimana in più, 10 giorni in più per la conclusione dei tornei nazionali nel caso dovessero finire per qualche motivo, sia in ogni caso per verificare come sono anche le condizioni delle squadre, quanto questo stress dovuto a una partita di 3 giorni a cui saranno obbligati in molti si verificherà a quel punto della stagione. Quindi credo che sia molto intelligente questo atteggiamento e questo cambio di format possa comunque preservare e la cosa più importante, cioè che si alzino poi alla fine della stagione le due coppe, l'Europa League e la Champions. Sicuro, sicuro, anche perché insomma probabilmente non ci potrebbe essere tempo per giocare andata e ritorno di quarti di finale e di semifinale. Resta il fatto che, Pierluigi, abbiamo parlato un sacco di volte di format in questo periodo, l'importante è che le regole siano chiare all'inizio. Sulle competizioni europee c'è cioè, chiaramente il vantaggio che tu puoi accorciare il numero delle partite senza modificare il senso di regolarità della stagione, no? A differenza per esempio di ipotesi playoff nel nostro campionato, che sarebbe ovviamente l'estrema ratio, molto arbitraria, perché quanti partecipano. Però invece, se lo sai adesso ti regoli di conseguenza su quello che viene. Però voglio dirti fare la Final Four, insomma, senza scomodare Miss Van der Rohe e il Lexis Moore, il grande architetto, però è un po' quella cosa lì, cioè tu puoi avere una competizione che invece di giocare le semifinali andata e ritorno ti porta a giocare in un unico luogo, ma può diventare con meno partite un evento per certi versi ancora più pieno di appeal, perché sì, le quattro squadre nello stesso posto, perché ci sarebbe sicuramente, secondo me è interessante, un'idea centrata che può avere un suo senso. Anche lì, se vuoi, ci sono, lo dico io, non lo dice Federico, degli interessi, perché comunque le televisioni che hanno pagato, in questo caso Mediaset per la parte in chiaro e ovviamente Sky per la parte pay, insomma hanno, e poi sull'Europa League anche per la parte in chiaro, ovviamente hanno pagato per un certo numero di partite, quindi anche lì ci vorrà il buon senso e la capacità di venirsi incontro per è una situazione di emergenza, ma io credo che col buon senso e con uno spirito costruttivo che negli ultimi giorni sto vedendo da parte di tutti, il governo della politica nazionale e il governo della politica dello sport, insomma alla fine con un pizzico di fortuna possiamo riuscire a salvare questa stagione, a creare i presupposti per il ritorno dei tifosi allo stadio e per un ritorno alla normalità, che è la cosa più importante. Fatemi chiedere ancora una cosa a Federico Ferri, che è una considerazione più generale. Federico, è stato il momento, questo tremendo momento, anche quello del recupero, del racconto dello sport, no? Te l'ho scritto in privato, molto apprezzato il vostro caso a Sky Sport, e non lo dico perché sei qui tu, ma l'ho detto anche pubblicamente. I picchi di Last Dance, vabbè, li conosciamo. Quale idea avete sul racconto dello sport in questo momento, ma anche in un prossimo futuro? Guarda, io penso che da se c'è una cosa che posso dire in questi anni un po' di gestione del prodotto editoriale di Sky Sport, questa è stata sempre al centro, cioè di sviluppare il racconto, perché poi quello che abbiamo ottenuto, i risultati in termini non soltanto di ascolti ma proprio di affetto, di cuore e di passione che genera questo tipo di racconto, è stato evidente. Quindi da Federico Buffa, che ha aperto per noi questo percorso, ripercorrendo quello di Giorgio Corrà, che poi da noi è stato il fondatore da questo punto di vista, arrivando a Matteo Marani, a Condò, insomma tutti i nostri personaggi da questo punto di vista, che si sono suddivisi vari aspetti del racconto sportivo. Oggi c'è stato un momento di nuovo straordinario splendore, se vogliamo, il traino di The Last Dance da questo punto di vista è stato importante, certamente. E quindi vogliamo andare avanti, vogliamo continuare tanto in questi giorni. Ripartiamo oggi con un'aspetto un po' diversa rispetto a quella che abbiamo fatto in passato, ovvero siamo andati a cercare a recuperare in alcuni casi come grandi riproposizioni di classici, in alcuni casi con materiale inedito, 10 grandi documentari di sport, di tutti gli sport, non soltanto di calcio, e li abbiamo dati in mano a Federico Buffa, che ci ripresenta un po' come i gialli di Alfred Hitchcock, non so se ve lo ricordate tempo fa, l'abbiamo proprio chiamato, sì. Federico Buffa presenta, e ci saranno queste piccole storie, questi piccoli racconti di Federico che introdurrà e concluderà queste grandi storie che riproporremo a partire da questa sera. Si parte con la vita, la storia di Francesco Moser alle 22:30 e poi si andrà avanti con tanti grandi racconti. Vi segnalo ad esempio One Brother, che è un documentario straordinario di ESPN a proposito di Vlade Divac e di Petrovic, una storia della loro amicizia poi divisa dalla guerra, e un piccolo che secondo me è il capostipite, il papà di molti di questi documentari, che il profeta del gol di metà anni 70, ha raccontato questo straordinario campione UIF, Sandro Ciotti, in un modo che oggi sarebbe ancora modernissimo. Poi l'abbiamo recuperato, restaurato, e lo proporremo fra qualche settimana ai nostri abbonati. Bello. Anche con appunto la chiosa di Federico. Sì, perché riprende il calcio, ma non ci stufiamo di sentire racconti. No, ma una delle poche cose consolatorie di questo periodo terribile è stato veramente rivedere partite del passato, riascoltare le storie del passato. Questa cosa da dire che Sky ce l'ha sempre avuta. Io mi ricordo quando lavoravo allo Sciacquato Egidio, che giustamente Federico citava, mi ricordo per esempio la dissolvenza a nero, che adesso è una cosa molto tecnica che magari chi ci ascolta non sa che cos'è, però c'era proprio un gusto estetico nel raccontare il calcio, lo sport, e nel mescolarlo, contaminarlo col resto della vita. Ecco, io credo che da questa esperienza qui, così come prima abbiamo detto che in certi momenti ci siamo sentiti tirati in ballo perché sentivamo che la nostra grande passione, che poi anche il nostro lavoro, veniva sminuito, e avevamo questa sensazione che venisse sminuito e riportato allo stipendio di Cristiano Ronaldo, di Lukaku o di Ibrahimovic, che invece è soltanto un aspetto della meravigliosa narrazione dello sport. Ecco, io credo che dobbiamo avere questo orgoglio, e sono assolutamente convinto, così come dicevamo ieri di Coppi Bartali, dell'importanza dello sport nei momenti di ripartenza, di rinascita. Lo sport nei prossimi mesi avrà un ruolo fondamentale, chiaro. Energia mentale per le persone, chiaro. Un ruolo, ci darà fiducia, ci darà conforto. È per fortuna perché ne abbiamo bisogno. Con enorme piacere ti auguro buon lavoro, Federico, grazie. Buon lavoro a voi, a presto. Mai con così tanta gioia. Ci vediamo per la borsa al volo, poi torniamo. Scusate, ma perché non possiamo fare come la Germania, che tra l'altro ha chiuso dopo e ha riaperto molto prima a questo punto? Perché noi dobbiamo mettere tutta la squadra in quarantena qualora dovesse risultare un giocatore positivo? Che senso ha? Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati. anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Tutti convocati. Riprendiamo dagli ascoltatori. Riprendiamo dagli ascoltatori, a cominciare da Andy da Rimini e Giuseppe da Genova, che sono in linea da un bel po'. Andy, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno Pierluigi, c'è anche... Sì, Giovanni. Ci siete tutti e siamo tre, tutti. Giovanni Capuano? Sì, perfetto, sì. Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda, l'altro giorno hai ospitato un po' di persone in studio e qualcuno ha detto, adesso non mi ricordo benissimo chi è stato, ha detto che dobbiamo mettere in calcolo il fatto che ci possono essere anche degli infortuni in queste situazioni, ok? E io non so quanto è semplice dire ci possiamo mettere in calcolo che ci possono essere degli infortuni. Come diceva prima Pardo, immaginiamo soltanto le condizioni ideali, cioè di Cristiano Ronaldo, di Ibrahimovic, di persone che prendono milioni. Vabbè, possono esserci infortuni, ma è un rischio, sì. È un rischio, ma noi pensiamo a questi come aziende, cioè loro in pratica non possono permettersi o non si possono permettere il fatto di avere un infortunio grave, di stare fermi, magari stanno fermi alla peggiore un anno e mezzo, ma loro ci rimettono. Cioè sono, è vero che sono super pagati, ma dei lavoratori normali non possiamo fare una condizione, cioè dobbiamo metterci in conto al fatto che possono prendere degli infortuni. Certo, come possiamo mettere in conto che un semplice operaio può cadere dal tetto, ma non dovrebbe succedere. Sì. Cioè lo Stato, in questo caso, che è Stafora, che non so effettivamente, è un ministro, ma non so quanto se ne intende a livello calcistico. Allora per chiudere, il rischio di un incremento degli infortuni può esistere. È una, credo, parte di quel mestiere lì, così come di ogni mestiere che può essere potenzialmente pericoloso. È chiaro che bisogna fare in modo che non succeda, però è cinico se dico che fa parte delle regole del gioco, Giovanni? No, ma non è questione di essere cinico, è così. Noi sappiamo certamente che ci sarà qualche fatica diversa a livello muscolare per mille ragioni, perché vengono da 2 mesi di fermo, poi da allenamenti prima individuali e poi saranno obbligati a giocare ogni 3 giorni in una stagione non particolarmente favorevole. Quindi ogni ragionamento che viene fatto, che parte da questo presupposto, è un ragionamento corretto e non strumentale, e bisognerà trovare qualche compromesso che in qualche modo limiti il rischio. Però ci fermiamo qui, nel senso che tutto ciò che viene dopo è esattamente la stessa assunzione di rischio, ovviamente parametrato in maniera differente, che si prende chiunque in qualunque lavoro torni a fare il proprio mestiere dopo una situazione come questa. E quindi fa parte del, visto che l'amico da casa ha paragonato i calciatori a delle piccole aziende individuali, allora diciamo che fa parte del rischio d'impresa, e io non ci trovo nulla di scandaloso, e credo anche che sia un rischio che fondamentalmente viene ben retribuito, e soprattutto che sia una categoria di lavoratori, quella dei calciatori, soprattutto quelli della Serie A, estremamente controllata dal punto di vista medico-sanitario, e quindi da questo punto di vista è fondamentale, da questo punto di vista certamente facilitata rispetto a tanti altri. E comunque insomma, se non si fosse giocato il campionato quest'anno, se non fosse stata la pandemia, si sarebbero giocati gli europei con dei ritmi sicuramente un pochino più larghi, perché si gioca in media ogni 5 giorni, ma insomma siamo lì, non è, è una situazione di emergenza. Tutto quello che può essere fatto, secondo me, per minimizzare questo rischio deve essere fatto, anche delle soluzioni creative appunto sugli orari, però ecco, poi io credo che stiamo parlando di un piccolo surplus di rischio rispetto alla normalità di quello che sarebbe stato un campionato europeo o quello che è un campionato mondiale negli anni in cui ci sono i mondiali. Insomma, ragazzi, la soluzione ottimale non c'è, dobbiamo trovare un modo per far passare puntata, come direbbe il mitico De Luca, che è al centralino, perché attraverso questo passaggio e con un pizzico di fortuna potremmo costruire delle basi migliori per la stagione successiva. Potremmo consentire a tutta la filiera del calcio italiano, e qui europeo, e infatti i francesi maledicono la decisione forse un po' troppo affrettata che hanno fatto, di essere competitivi. E la competitività è fondamentale in qualsiasi settore della vita. Sicuro, no, ma poi si tratta di garantire anche la competitività degli altri sport, ed anche questo è un discorso che abbiamo lungamente fatto, perché c'è ancora chi dice ma gli altri sono fermati e il calcio va avanti. Sono cose profondamente diverse, e non mi stanco di citare le parole Giovanni Cera venerdì scorso con Sandro Campagna, quando diceva il sistema del semiprofessionismo in Italia è morto. In questo momento è finito. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti. Dica. Volevo dire che non condivido l'entusiasmo, ma sono punti di vista, per carità, non voglio fare polemica. Chiedevo questo però. Sapete, confesso la mia ignoranza, se è stato previsto un caso come è capitato in Germania di giocatore che positivo va in campo, fa due gol, poi salta fuori che lo è, poi non lo è, cioè è stato previsto come potrebbe funzionare? Perché a pensare male uno può pensare mi sto giocando lo scudetto, io sono juventino, dico Dybala, per dire il primo che mi viene in mente, non dico che ce l'ha, non che ce l'ha, che è positivo, cioè, cosa può succedere? È un qualche cosa che è stato previsto? Non ho capito bene. L'illegalità non dovrebbe essere prevista. Se uno è in quarantena perché ha il Covid, esce e lo prendono, commette un reato. Quindi la quarantena è di tutta la squadra se trovano in Italia, giusto? È così? Quella sì. La regola che ha detto al momento è così. Sì, okay. Al momento è così. No, l'ha detto il Comitato Tecnico Scientifico. Poi su quel documento che ieri è stato validato dal CTS c'è scritto che se nei prossimi 15 giorni cambiano le condizioni a livello generale e quindi c'è un allentamento di quelle norme che non riguardi solo il calcio, ma in generale riguardi tutto il paese, si potrà riscrivere quella parte di protocollo, e ovviamente è la speranza di tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio, perché così come si parte adesso si è un po' appesi a un filo ed è discretamente probabile che su una comunità di 1000 persone poi prima o poi salti fuori un positivo. Però detto questo, io credo che invece sull'ipotesi che qualcuno faccia il furbo, io non ci voglio nemmeno pensare. Anche perché, attenzione, stiamo comunque parlando di una pandemia, e se è vero che noi abbiamo in qualche modo escluso che possa esserci una responsabilità penale delle aziende, quindi in questo caso dei club calcistici o dei medici, laddove vengono rispettate le regole, è chiaro che se qualcuno venisse indotto a forzarle e poi avesse dei problemi, saremmo di fronte a dei comportamenti di una gravità assoluta. E quindi insomma, io immagino che questo valga per il datore di lavoro che deve gestire un cantiere, e valga a maggior ragione nel per chi deve gestire un club calcistico. Le leggi sono leggi nel calcio come fuori, questo mi sembra abbastanza scontato. Allora, la buona fede, dai, va, è proprio insomma, un requisito fondamentale. No, però poi se uno Pier commette un reato verrà perseguito. Cioè, certo. Poi noi dobbiamo dire una cosa con forza, e cioè che la possibilità che all'interno del villaggio del calcio, dove ci stanno 500 tesserati di 20 squadre e tutti quelli che sono a diretto contatto con loro, quindi lo staff, i magazzinieri, diciamo questa comunità di 1000 persone, la possibilità che in questa comunità di 1000 persone venga trovato un positivo a un tampone è estremamente più alta rispetto a qualunque altro ambito della società, ma non perché il calcio è uno sport di contatto, ma semplicemente perché non esiste nessun altro ambito della società italiana, europea e mondiale in questo momento che ogni 4 giorni viene sottoposto a un tampone, anche se asintomatico. Io immagino che se venissero presi 1000 cittadini a caso, statisticamente parlando, asintomatici, e venissero sottoposti a tampone ogni 4 giorni, tu i positivi li trovi a prescindere. Sì, questo è certo. Questo certo è una questione di numeri. Fermiamoci per il traffico, torniamo, perché c'è anche oggi, me lo segnalava anche prima un ascoltatore e non manchiamo l'appuntamento, una ricorrenza terribile da ricordare. Buon pomeriggio, speriamo che questo campionato che sta per ripartire si possa portare a termine, e a quelli che si lamentano per le rose troppo corte che guardino al settore giovanili, in modo da poter valorizzare anche i giovani calciatori italiani bravi, che ce ne abbiamo parecchi. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Circa un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate e dopodiché molta gente si è riversata sul terreno di gioco. Commenterò in modo il più impersonale e asettico possibile. Vedrete che nonostante l'ingresso in campo dei giocatori, ciò che dovrebbe costituire stimolo differente, continuano gli incidenti. E a proposito di sport e di racconti, in questo periodo Pierluigi e Giovanni lo sanno benissimo, abbiamo celebrato molti anniversari che hanno dato un senso di festa e di vita, no? di ricorrenze sportive, ma per coerenza e per non dimenticare, perché è doveroso, bisogna ricordare anche la notte più lugubre del calcio mondiale, 35 anni fa l'Aisel. Emilio Targio, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione. Grazie a te, autore di Una notte all'Aisel, uno dei tanti libri che sono stati scritti su questo... Su quella terrificante notte, chiedo una sensazione personale a testa, a cominciare da te, Emilio. Allora, io ero lì e grazie a Dio sono qui, questa è la prima sensazione, per cui poi si vivono questi anni anche con quella stupido senso di colpa che però è inevitabile. E poi se uno sceglie di fare il giornalista, come tu ben sai, magari prova a sciogliere nell'inchiostro quello che è successo. La sensazione stavolta è diversa perché chiaramente sono stati tutti gli appuntamenti fisici che organizzavamo ogni anno in giro per l'Italia e che ci davano anche un po' il contatto con alcuni sopravvissuti, eccetera. Siamo a dimensione multimediale, crossmediale, che ci allontana un po' forse dal calore del ricordo. Però ci proviamo lo stesso e quindi è più difficile. Quello che mi premerebbe è provare sempre a trovare ogni anno una dimensione nuova di quella lettura. Quella che potremmo forse dare è di provare a ricordare che non si tratta solo di un dramma di calcio e di sport, perché c'erano 39 cittadini europei, c'erano 39 persone, 32 erano italiani, ma gli altri 7 erano del Belgio, della Francia, c'era un ragazzino di Belfast che faceva l'archivista alla Commissione europea. E non soltanto questo, non erano nemmeno tutti juventini, per cui quando si parla della strage dell'Aisel, gli insulti agli juventini, non erano nemmeno tutti juventini, c'erano addirittura 3 interisti, quindi che accompagnavano amici juventini, anche in una dimensione in cui la contrapposizione era molto più leggera. Quindi anche da questo punto di vista, no, ad esempio, sarebbe bello, ma non è una provocazione polemica, sarebbe bello che l'Inter, che di fatto è la società più colpita da quella strage dopo la Juventus, magari con più forza ricordasse quella strage e quelle 3 persone, le loro storie, perché poi dietro quel numero, no, come ben sappiamo facendo questo lavoro, i numeri anestetizzano un po' il ricordo. Invece provare a ricordare le storie di quelle persone, secondo me rende loro un po' giustizia per la loro vita interrotta. Sì, questa è la prima sensazione. Fu uno dei grandi fatti di cronaca degli anni Ottanta, la sensazione è quella, Pierluigi, di andare a letto, chiudere gli occhi e rivedere quelle immagini quando sei ragazzino, cosa che a noi è successa. Sì, è terribile, devo dirti, mentre ascoltavo questo frammento della telecronaca di Bruno Pizzul, se vuoi un aspetto marginale, ma non credo che lo sia, ancora una volta, no? La lezione di misura di quelle parole, di quella capacità di mantenere un equilibrio, il senso di responsabilità nei confronti di chi stava vedendo quelle immagini da casa, ma al tempo stesso ovviamente anche l'aspetto umano è veramente un maestro assoluto. Per quanto riguarda invece l'aspetto più importante, che è quello della cosa orribile che è successa, rimane una delle pagine più inquietanti, più assurde della storia, perché sappiamo che è stato frutto certamente della violenza, ma anche di tutta una serie di nefandezze sul piano organizzativo veramente incredibili, strutturali di quello stadio. È stata veramente una somma di errori assurda e imperdonabile. E poi il tweet del Torino che ho ritwittato questa mattina, che fa il paio con il tweet della Juve per quanto riguarda Superga. Ecco, siamo, e forse questa pandemia, fammelo dire da romantico ottimista, ci deve far sentire veramente il valore vero del vivere un pezzo della nostra vita con questa grande passione che è lo sport, sì, nello specifico il calcio. Semplice poi c'è chi nasce di una squadra, vabbè, chi nasce di un'altra, ma di fronte a queste cose qui siamo tutti assolutamente dalla stessa parte, uniti nel ricordo e nel rispetto. Sì, semplice civiltà, no, Giovanni, quella della così, solidarietà del ricordo comune. Sarebbe bello un giorno fare i conti, guarda, su quello che di positivo possono aver lasciato queste grandi tragedie come insegnamento per quello che si è fatto dopo. Beh, guarda, di positivo hanno lasciato tanto. Basti pensare ad esempio che in Inghilterra venne di fatto ridisegnato, sì, il calcio e tutto ciò che c'era intorno in, sì, quegli anni, non solo per ciò che accade alla ISL, ed è nata poi la Premier League e il modello inglese che è diventato il modello di riferimento. Sul fatto di riuscire a vivere in maniera condivisa queste tragedie, purtroppo non è così per tante persone, e non facciamoci illusioni, anche se io devo dirti che questa notte ho veramente apprezzato che il tweet numero 2 dopo quello della Juventus, pochi minuti dopo mezzanotte, il ricordo della ISL sia stato quello del Torino. E poi mi piace ricordare, a proposito di gesti simbolici, che abbiamo avuto anche noi una piccola parte 5 anni fa, era il novembre del 2015, in quel gesto simbolico fatto dal presidente allora della Federcalcio Tavecchio di ritirare la maglia numero 39 della nazionale. Gesto simbolico perché la maglia 39 della nazionale in realtà non esiste, ma lui lo fece, se ti ricordi, sollecitato, sì, in una serie di chiacchierate anche da noi, e lo fece quando la nazionale andò a giocare a Bruxelles un amichevole. Era il novembre del 2015, erano i 30 anni da quella cosa, e secondo me simbolicamente, pur essendo una maglia, la 39 della nazionale che non esiste, non è mai esistita di fatto, serviva quasi per raccogliere il sentimento, certo, di tutti attorno a quella tragedia. Certo, gesti che non sono assolutamente soltanto formali. Grazie a tutti ragazzi, grazie davvero a Emilio Ottaggio per aver partecipato, grazie a Pierluigi Pardo e a Giovanni Capuano. Colgo l'occasione per ricordare che tutti convocati weekend il 13 giugno, anzi 14 perché 13 è sabato, il 14 giugno tornerà in onda e vi accompagnerà nel corso di questa estate sportiva che ci aspetta. Claudia Schiattone, Giorgio De Luca, Roberta Frisani, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.